5H. Ascolta e trasforma. Riposa un po' perché è stanco. Ha riposato un po' perché era stanco. Non risponde al telefono perché sta facendo la doccia. Non ha risposto al telefono perché stava facendo la doccia. Non esce perché non ha voglia. Non è uscito perché non aveva voglia. Prende un antidolorifico perché ha mal di denti. Ha preso un antidolorifico perché aveva mal di denti. Non compra niente perché non ha soldi. Non ha comprato niente perché non aveva soldi. Mario rimane in ufficio perché ha molto lavoro. Mario è rimasto in ufficio perché aveva molto lavoro. Non studia perché sta male. Non ha studiato perché stava male. Non guardo la TV perché è rotta. Non ho guardato la TV perché era rotta.